1 su 10. Hola. Beh, Gianni. Oui. Io sto aspettando il maresciallo, quindi sono entrato a salutarmi, perché ho sentito che hai chiamato. E ho già l'altro giorno, proprio ieri, sono andato a vedere il giunto e l'ho trovato tutto ossidato. L'ho solo svitato e riavvitato. Vado a vedere e le stazionarie erano di nuovo normali. Ma puoi vedere che è davvero il giunto, che si ossida in pochi giorni e l'antenna non c'ha nulla. E io cosa ti ho detto? Te l'ho detto che era quello lì. Perché lì ci passa l'umidità, c'è poco da fare, se devi mettere il cavo nuovo e basta, no? Se non ci arriva, almeno che ci arrivi, ma se non ci arriva lì devi mettere il cavo nuovo, fai la spesa del cavo e ritorna tutto come prima. Ehi, guarda, o è un caso, oppure proprio quello. Prima era integro. Vabbè, dai, si vedrà. Io non penso che sia un caso, Marco, perché se tu l'hai pulito e l'hai ossidato di nuovo, vuol dire che si ossida a poco tempo, che non dura, nemmeno, o non l'hai vulcanizzato bene, eccetera, ecco, tu mi hai detto che hai fatto una cosa provvisoria, perché poi magari dovevi staccarlo, quindi magari è capace che sia entrata umidità. Sì, perché l'ultima volta l'avevo pulito, non ci avevo messo quel disossidante Trigot, lo avevo avvitato e l'ho trovato che non ha piovuto, credo almeno, e l'ho trovato peggio di prima, tutto bianco, il metallo tutto bianco, sembrava fatto di borotalco. Sai cos'è? Che lì si ossida comunque, anche se li metti il corso, secondo me va messo il PL nuovo, i due PL nuovi però, il barilotto nuovo, li colleghi e vulcanizzarli subito, allora forse si mantiene pulito, però non deve prendere aria o umidità, nemmeno l'umidità notturna, se non torna come prima. Ma una volta che tu li metti vulcanizzati cominci dal filo, di modo che abbia che non ci siano fuoriuscite di cosa, che possa entrare l'umidità, cominci dal capo, dal filo, e poi se lo butti tutto sopra, poi li metti il nastro isolante sopra, così lo stringe bene, vedrai che non si muove più. Io ti appoggio. Mi Antonello. Ebbè, pompù. Vabbè, già, va. Ma già va bene, dai, mi sono un po' ripreso. Mi avevano trovato problemi al cuore, ma è roba da poco, dai. Con una pastiglietta mi è passata, c'è un tachicardia. Ah, ho capito. Se, magari sei ansioso, ma niente di strano. Capito? Come quando è così devi pigliarti voce di Lexotan e ti calma subito. No, non è meglio dei cicosi, ma guarda. No, quelli sono tranquillanti, io non è meglio. No, ma è bastato solo una pastiglietta per regolarizzare praticamente la frequenza cardiaca, capito? Perché la frequenza cardiaca che è un po' sballata. Ah, ho capito, io a volte capita anche a me, si agita il cuore, poi vabbè, per calmarlo, per la direzione si calma subito, diventa normale, ma quello me lo fa lo stesso a volte, capito, quando devo fare roba veloce, oppure mi alzo di scatto la mattina che mi chiama qualcuno, capito, che magari ancora sono sotto, io magari sono a letto ancora, dico aspetta 5 minuti, allora viene tipo panico, capito, per scendere veloce giù, allora piglia per la 8 voci e poi sono a posto. Ma non ti abituare a queste cose, Ani. Non ti abituare troppo, perché poi non è per fare a meno e ti sbarrano, ti fanno diventare di tuo gatto moscio, di una negara di barnuda, perché ti mabbioccheggiano i cicosi. Un giorno guarda, stavo lavorando giù l'Antonello e siamo andati di Alghero, mi è venuto questo panico, tanto c'ho il panico, cioè, non ti preoccupare, ci penso io, cazzo. Come siamo arrivati, mi ha dato, dice, bevi questo, bevi, mi ha detto, cazzo, era qua vitera. Ho bevuto appena appena, immediatamente mi ha calmato, cazzo. Cosa c'è? Una crisi di panico? Perché soffri di crisi di panico? A volte me lo fa, ma panico leggero, se no basta quelle pastigliette lì, tipo quelle che si usano per dormire, quelle che vende lo spi, basta una piccola lì e ti rilassa per appena e ti calma. Me lo vuoi fino? L'aila, come cazzo lui chiama, quella roba lì fa bene, lì. È roba di erba, non è che faccia male. Avanti Marco. Eia, ciao Antone. Bisogna ogni tanto bisogna aggiustare l'organismo, qualcosa che aiuti. A Gianni magari è venuto questa cosina al cuore un po' perché usa troppo Viagra, capito? E gli ha un po' sollecitato troppo. Che bastardo, dici. Alice, droga! Vedi, io uso il Chalice, migliore, più leggero. Sì, non ne ho mai risolto di quelle cose, boh. Io quella dell'asino uso. L'asino della crucca. Comunque, scherzando, me l'ha chiesto se lo usavo. Aspetta che mamma mi chiama, hai detto scherzando? Il dottore me l'ha chiesto se usavo Viagra. Perché sai, diciamo certi lo prendono pur di fare, no? Magari se ne prendono molto e può dare problemi all'impianto cardiocircolatorio. Perciò dicono di andarci molto. Arrivo, molto cauti. Bianco per me, vai Antonio. E io una volta la curatura ha fatto soccorso, se ne ha preso due e il dottore gli ha detto adesso quella roba lì la usa solo per fare la pipì. Adesso si è ripreso, poteva venire un infarto e rimanerci, perché era quasi in arresto, ti ha fatto male veramente, gli ha detto adesso quella roba lì la usa solo per fare la pipì, perché non la usa più. Quella roba lì fa male, sì. La volta lo fa che quando sei un bere, capito? Eccitato, quindi a me mi si è fermato per un secondo il cuore, ha mollato tutto, figurati, una sera, immediatamente ha mollato tutto, mi sembra che spaventato, ha detto no, non vado più avanti, gli ho detto. Vabbè, perché non ti aspetti certe cose, poi con tutto quello che senti in giro, capito, ti viene subito il pensiero, sarà qualche fatto. Una volta mi è venuto questo panico, quando ero a casa di mamma, io abitavo ancora al centro storico, sono salito a casa di mamma e tutto un tratto mi viene questo mal di petto, strano. Prima mi è venuto il cane, un 4 ore prima, 20 minuti, e l'ho visto strano, quel cane, e tu mi hai detto, il cane, detto, il Giampiero, è strano, salendo, scendendo per il letto, gli ho detto, mi sta sempre leccando, c'è qualcosa che non va. Dopo 4 ore ho cominciato questo mal di petto, non potevo stare né dritto, né sdraiato, né niente. Poi sono andato a pronto soccorso, sono andato e c'avevo 200 di battito quasi. Immediatamente me l'ha fatto entrare, mi ha dato l'Exotan, 8 gocce al giorno, però andando diminuendo, ho capito, mi ha detto. Dice, questo è il panico, lei non ne ha mai sofferto, e tu non avevo detto che mi capita una cosa del genere, gli ho detto. Dice, quando c'ha mal di petto, mi ha detto, non è niente, mi ha detto. E c'ha una gira pizzo di saputo, è tutto lì. Evidentemente ci ha preso freddo, è divenuta questa cosa qui. Infatti quel periodo io partivo dalla VDV in moto, con un freddo in vela e arrivavo a casa, capito? Facevo tutto quel tragitto, facevo. Ma non c'era l'altra la pastiglia da mettere sotto la lingua per calmarsi la pressione alta? No, non mi ha mai dato niente, l'unica cosa è che mi aveva dato la spirinetta, poi domani aiuto la spineretta. Mi sentivo male. Ho preso subito sopra alla Belgio, mi ha aiutato la birra, ho preso la scatola del pastiglia, ci ha aiutato la pancia, poi sono andato dal medico, gli ho detto così e così, gli ho detto dottore. E chi gliel'ha data questa pastiglia, questa spineretta? E dall'ospedale me l'hanno data, gli ho detto. Dice, non ne prenderà più, che dice che gli fa male, che non ha bisogno di spineretta, mi ha detto. Vabbè, uno dice la sua, perché sono contrastati tra me. E lui passa per guai. Sei uscito per metà, me lo sai. Cosa? Che sei uscito per metà del radio. Perché non ho preso bene la veste. Perché sto usando una V più 4 e sono lontano. E quello ci stiamo dicendo che praticamente mi ha dato questo foglio dove c'era scritto che riguardassi la legge, perché lui mi poteva dare quelle pastiglie senza piano terapeutico e che se non mi si rifiutava poteva passare casino. Sì, quello già lo so anch'io. E piano terapeutico, anche il medico di base, se si rifiuta di dare le pastiglie e cose del genere, puoi denunciare, puoi chiamare i carabinieri e puoi denunciare. Quello già lo so anch'io. Perché il medico mio, quello che avevo prima, e tu guarda che mi si è detto il ex ha detto per Simone. Non te ne posso dare come pensi tu, mi ha detto. Te ne ho solo uno cosa faccio, ho detto, con uno? Detto, mi scusi, detto. Se non due manco un mezzo, gli ho detto un falconcino, cosa sta dicendo? Faccio una cosa, ho detto, guarda fanculo, gli ho detto. E se ce la prendo alcune passa buone feste. Gli ho detto, mi sto cancellando così, ho detto, si passa la voglia di rompermi le balle. Ciao, subito ho cambiato, io ero altro di medico, io molto più in gamba di lui, capito? Una volta che andavo a fare, che dovevo fare qualche foglio per fare qualche visita medica, cosa del genere, cazzo, 120 o 70 euro, tutto in nero, capito, senza lasciarmi ricevuta né niente. Altra volta gli ho detto, guarda, mi servirebbe il foglio della 104, gli ho detto che devo fare devo comprare della roba, gli ho detto per Simona. Mi dai 60 euro, mi ha detto. Ho detto non ce li ho 60 euro, ho detto, Fabio ce l'ho, detto, mi fai il foglio, te lo do. Hai capito? E me l'ha rifacciato, quando me l'ha rifacciato, la parola gli ho dato, quello gli ho detto, per 60 euro famosi. Ho detto, no, chiusi i rubinetti, gli ho detto, Antonello, per te, grazie. E infatti no, ho cambiato medico. L'altro medico, che c'è, se li chiedo, mi ha fatto il foglio, 104, non ho pagato niente. L'S3, quello che si fa per l'accompagnamento, per la pensione. Ah, quello è cosa, la domanda online, mi ha fatto pagare 120 euro. 120 euro a una, 120 euro all'altra, poi per quello dell'aggravamento e altri 120 euro, e quindi capo da 120 a 240. Cazzo, non sono mica un manco, vattelo, ti ho detto. E poi che se lei fammi il foglio per la in pratica della SL, cioè in pratica deve farlo lui, per poter andare nei negozi e per pagare di meno con la 104, capito? Ho capito, ce ne sono tanti così, per dire il CAF che c'è sotto casa per fare 7.30 mi aveva preso 90 euro una volta, dovevo andare, adesso pago 25 euro, capito? Praticamente me l'ha anche sbagliato e mi è arrivato a pagare una cifra alta. Adesso per 7.30 è un casino, perché hanno sbagliato tutti. Un biglietto sbagliato, gli sono arrivate le cartelle tutte strane e quindi non avevo voluto fare. Adesso poi c'è anche il problema che bisogna fare il foglio ISE secondo quello che devi fare e devi pagare 25 euro per questa storia qua. Capito? Se ce l'ho sbaglio devi fare un foglio integrativo, devi fare la denuncia integrativa, paghi quello che c'è da pagare, ti fa il foglio integrativo e sei a posto, capito? Solo che quando sono cifre esorbitanti, tipo 14.000 euro, 15.000 euro, una signora ha detto che ha venduto la casa da 3 anni, è venuta al capo quando c'ero io, e gli sono arrivati 18.000 euro da pagare. Perché risultava che lei non aveva fatto la denuncia che aveva la casa, capito? Ma lei la casa l'aveva venduta, che cavolo di denuncia doveva fare? Dice, ma lei doveva farglielo sapere all'ufficio delle entrate, come fare a sapere loro che l'ha venduta? E sono, loro sono in regola, è lei che non è in regola, che non ha fatto, ma te immagini? Adesso, adesso quando mi saranno partiti, quando vedi casa devi immediatamente dire all'ufficio delle entrate, se fai una vincita devi dire all'ufficio delle entrate, se no ti mazzano. Tutto devi dirgli, devi andare lì, guarda che ho vinto per dire 500 euro, e io volevo dire, tutto vogliono sapere. E fatti di vega non ha mai fatto di 730, non sai quanta gente conosco che non ha mai fatto di denunciare i redditi, ui. Vabbè che il giorno che li trovano, se li trovano pagano per tutti, però intanto sino adesso una vita che non ne fanno e non ne hanno mai trovati. E chi paga viene sempre cercato per pagare gli errori, le cose, perché ho fatto sempre 730, l'ho fatto sempre regolare, eccetera, eccetera, e basta che faccia un errore, ci piaggi tu. E mica c'è perché il commercialista, non riusciamo a comprare il commercialista, cioè, non so proprio di dire, lui ti risponde, dice ma loro l'hanno fatto lì, cosa vuol dire che ti dica? Ti dice, non so cosa dire, paghi, l'unica cosa che ti dice è paghi e basta, poi se faccia causa, se la vince devi tornare su di dietro, se no pazienza. Sì, sì, a me mi ha detto così, paghi subito perché se no gli arrivano gli interessi. Mi sono dovuto pagare 7.400 euro tutti insieme. Io lo so, purtroppo è così, bisogna stare molto attenti, bisogna stare. Dove la vai, abbiamo fatto il coso. La fatta di Giovanna, c'è mangiata lì, me l'ha fatto. Tutto lì, mi sono messo d'accordo con lui e siccome a me il terreno non mi fregava niente, gli ho detto facciamo così, tu mi fai quello che quella cosa, io ti lascio il terreno e tanto la parte mia non me ne frega niente, gli ho detto. E così ho fatto. Ma quella campagna lì venuta l'avevate, quella che ci avevi lì vicino alla fedoce? No, è ancora lì, abbandonata la campagna, poi la casa, il tetto ne è collato un pezzo, ci vuole più a sistemarla adesso che a venderla, lascia perdere. Una volta li volevano dare a 80 milioni, li volevano dare a mio padre, sono venuti con la valigia, cazzo, la valigetta, dice guardi signor Francesco, questi sono i soldi, io ho detto no, non vendo niente, non vendo nulla, ha detto. Capito? C'è poi una volta ho venuto qua a casa e non ho voluto vendere né Giovanna né Giampiero, quindi io, a me avevo le balle intere a riprendere quella campagna di stare lì, sono più di 15 anni lavorandoci insieme a babbo, andare a raccogliere filocchi, pomodori, cosa c'è, oppure che cosa, a darli a, come si chiama, a fare il regalo agli amici, poi a portare la merce in la frutta e verdura, che poi ha marcito due auto, ha marcito due cofani di auto, il 127 è la prima Polo, figurati. Lui era appassionato di quella roba lì e per non stare, dopo che era andato in pensione, in campagna si ripetiva, come lo diciamo va quello, capito? Poi dopo che gli è successo quello che gli è successo, ha avuto tre malori, che ha distrutto mezza macchina, ha distrutto un Apollo. Allora, però l'abbiamo messo in casa, ho detto la chiamo, la uso più in campagna, non ci scende più. E da lì poi è durato, ora ti posso dire, un anno dopo il terremoto di Bronco poi morite. Non puoi lasciarla così, la campagna devi tagliare l'erba, perché sono d'estate, se c'è qualche incendio o qualche cosa cercano a teme. Occhio che l'erba vuole tagliata, vuole tagliata a raso. Sì, ci puoi entrare, le erbe passe, il ponte non esiste più, capito? Dall'altra parte non ti fa passare quello scemo che c'è lì prima, e quindi sono chiuso da una parte all'altra, non posso passare da nessun posto, cosa farò? Spendo 20.000 euro per fare un ponte, ci passano gli altri e cosa, per andare a tagliare l'erba, non saranno. Per me è proprio per quello, guarda, ma sono tutto la mezza del ballo per come ti puli la campagna. Se ci vuoi andare ci va Giovanna, con fidanzato e se, con il disfigliatore in mano si taglia l'erba, a me non mi deve neanche cercare. Perché è un peccato, si potrebbe recuperare qualche cosa di soldi, che fanno sempre comodo, invece che lasciarla così abbandonata. O la utilizzi oppure la vendi, cosa ne vai così la panna? Adesso dico a qualcuno se ci vuole piantare il piante di fumo, cazzo, a me non dico, guarda, ma io faccio finta di non conosce, tu pianta piante di fumo, poi un tanto il 10% va a me e il resto lo tiri tu. E così da restare giù da che sei tu il proprietario. Una volta l'ho trovata, ho visto questa pianta a cazzo al bordo del fiume, no? Ho detto che strana questa pianta, alta, cazzo, profumata. E gli ho detto a Gian Piero, ma cosa, che cazzo di pianta è quella che non l'ho mai vista? Dice, quella dice, tu è cocca, mi ha detto. Cazzo è. E lui se ne intende. Lui già le conosce le piante di Avoglia. Adesso per dire, se tu te la vuoi piantare in casa la marijuana, una pianta, sino a 7 piantine le puoi piantare, come bellezza, come cosa, c'è la gente che se le piantava nel vaso in casa. Ha un profumo, si sente da un chilometro, lascia perdere, cazzo. Non fa nemmeno piantare con una cosa del genere. Se passano i carabinieri con i cani, vedrai come mettono, come guardano sopra e te ne salgo la casa. Ha un profumo celestiale. Sì, al produttore una volta arrivo a mano lì, all'arrivo avevano piantato le piante in mezzo alle canne e i carabinieri l'hanno sgamate, l'hanno tentati. La notte quando sono andati per controllare l'hanno investigato in tutto. Io glielo credo. No, è troppo profumata quella pianta, lascia perdere che... Avanti Marco. Ha un profumo celestiale. Anche tu si così. Vabbè, drogato, hai capito? Drogato! Ma adesso io dico, vabbè, però quel babbeo di Salvini, quel babbeo, sta vietando la cannabis light, che praticamente è cannabis senza l'effetto drogante, cioè è droga ma non è droga, è come fumare camomilla, non si può essere più idioti, e la sta portando avanti questa crociata da un po', se non fa nulla, è solo aromatica, contiene CBD che dovrebbe essere un calmante, che poi non fa niente, perché non fa niente, niente, lui è ottuso, non lo capisce. Quella si usa a livello curativo, non è che sia una droga, è praticamente trattata, si usa per curare, proprio c'è gente che si cura i dolori con quella roba lì. No, però già, per curare i dolori ci vuole quella vera, quella con l'effetto drogante, col THC. Quella senza niente che vendono anche questi negozietti cannabis store, è come fumare paglia, capito? È buono il sapore e basta, ma non fa niente. No, non è nemmeno calmante. Il CBD non fa niente, garantito già. Vabbè, io non ho mai fumato, di quella leggera non ho mai fumato, non so nemmeno come sia. No, ma uno dire light, no, uno dovrebbe avere un pochino di effetto, ma la percentuale di THC è talmente infinitesimale che non fa assolutamente niente, niente, cioè, come fumare camomilla, ecco, paglia. Ma il serviglio è quasi, ma che sono io. Si è andato a ruotare quelli che ci hanno fatto iniettare, che ci hanno fatto iniettare quella merda che fa male, ci ha fatto fare i vaccini per ubri. No, no, io non voto più. No, non era per obbligo. Però non voto più da un po'. Anzi, avrei voluto strappare la tessera elettorale in sede elettorale proprio in segno di protesta. Come era per obbligo? Se non la facevi ti mandavano via dal lavoro, i dottori li mandavano via, i chimici di laboratorio li mandavano via, erano obbligati a farsi i vaccini, per primi hanno fatto fare i vaccini a quelle donne delle pulizie che puliscono l'ospedale. Ehi, sai cos'è? Forse chi aveva proprio l'obbligo, per il proprio l'obbligo per legge erano medici, appartenenti alle forze armate, forze dell'ordine, tutti gli altri diciamo non era un obbligo, però con la minaccia del licenziamento ti obbligavano, tra virgolette, a farlo, però era una minaccia, non c'entra niente con l'obbligo di legge però. Capito, ti dicevano o ti fai o te ne stai a casa, magari senza stipendio, oppure ti licenziamo. Quello però non è un obbligo, è una costrizione, diciamo, dai, come che ti puntassero la pistola alla tempia e ti dicessero o fai questo o ti spariamo. E cos'è? Se, guarda che a me è capitato di andare in un supermercato all'Eurospin e mi hanno fermato, mi hanno detto dove abitavo, mi hanno fatto tornare indietro, capito, i carabinieri, mi hanno detto l'Eurospin, mi hanno fatto tornare indietro perché ho detto che i supermercati vicino a casa mia c'erano, ma se io non posso spendere tanto e devo andare a spendere di meno, perché mi devono obbligare a spendere di più? Ecco, lì è violenza privata, capito? Quello di impedirti di approvvigionarti di generi elementari, perché tanto ormai eri lì, che tu la faccia lì o dietro casa non cambia nulla. Guarda, queste cose mi fanno incazzare. Comunque questi pidocchi delle forze armate, delle forze dell'ordine, si sono contraddistinti, così come anche molti medici, hanno fatto vedere il loro vero volto. No, perché loro hanno detto che più di tanti chilometri non potevo fare da casa mia, capito? Che sono andato all'Eurospin di Viale Portottores lì, che non potevo fare più di tanto, dovevo stare a 100 metri dall'abitazione, mi pare. E tu dirgli, guardi, ho dimenticato il decametro a casa, non so a che distanza sono. E vabbè, lasciamo perdere. Una cosa ridicola come questo dell'obbligo di stare a casa, obbligo. Poi a quelli che hanno fatto la sanzione, le sanzioni le stanno tutte lasciando scadere, capito, annullando, roba del genere, che dovrebbero mandare non so quanti milioni di verbali, non è fattibile, capito, non so. Cioè uno è obbligato a stare a casa solo dietro o cosa dell'autorità giudiziaria, se sei domiciliari per esempio, se non nessuno ti potrà tenere a casa, è un discorso lungo comunque, non mi va di farlo perché tanto la gente anche si mette a 90 gradi, capito, basta sentire una voce vagamente autoritaria e tutti a 90 gradi, sì sì sì sì, vacciniamoci, sì sì sì, stiamo a casa, sì sì sì. Però parlo della violenza che hanno usato, a Carbonara hanno preso a quei tipo a pugni, hanno buttato in terra, cioè, i vigili urbani questo qui, no, no, la moglie c'è stata giù a buttarci la mondezza, l'hanno trovata senza mascherina, l'hanno fermata, gli hanno chiesto i documenti, ma ce li aveva, il marito era affacciato, gli ha detto aspetta che li riporto io, sono sceso giù a portare i documenti, non so cosa sia successo, perché gli sta facendo la multa, gli ha detto non so che cosa, l'hanno strappolato, buttato in terra, mi hanno rimasto tutti il culo. Sì, sì, avevo visto il video. E cos'è nato? Tutto per un controllo. Guarda, nemmeno la polizia, nemmeno i carabinieri si comportano in tale modo di cercare di atterrare una persona per futili motivi, dandogli calci alle gambe per atterrarlo, no? E chi l'ha fatto? I vigili urbani, perché quelli sono, non è inutile che chiami polizia locale, sempre i vigili urbani sono. È vergognoso, è anche vergognoso che poi siano andati a punire quelli che hanno ripreso, che però hanno parlato male, proprio con offese dirette, e credo che siano stati anche condannati, quelli che avevano fatto il video, me. Una dottoressa gliel'ha fatto il video, una dottoressa che abitava nel palazzo di... Sai cos'è? Che la legge va contro chi fa la giustizia, capito? E lo sai cosa c'è? Che i vigili, da quando hanno dato questi compiti di polizia, ne stanno approfittando troppo, si gridi dei sceriffi. Poi sai, ne hanno approfittato perché è quello che fosse, che credo che fosse già pregiudicato, gente con cui è facile, capito, prendersela. Però ho mai visto una cosa del genere, un atteggiamento così aggressivo, per futili motivi, poi da parte di vigili urbani, sottolineiamo, vigili urbani, non polizia locale, quello che è. E questo è niente, immagina se ci fossero periodi di tensione molto maggiori, cosa arriverebbero a fare? Adesso te la racconto qua, sono sceso giù col cane e ho visto questa macchina che ha suonato, l'altra che non ce l'ha fatta, si sono sbattute e quest'altra macchina è andata verso il muretto della chiesa dei mormoni, si stava quasi per sbattere. Subito dopo stavano passando i vigili e si sono fermati, io ero fermo lì perché ho guardato e ho pensato che si fosse sentito male questo qui perché non aveva il controllo della macchina. E colui l'ha suonato ed è passato lo stesso, capito? E praticamente mi sono fermato perché tu lo sai che ho fatto 17 anni di servizio ambulanza, se c'è da dare una mano la do. Praticamente questo vigile è sceso dalla macchina e ha detto a lui le serve qualcosa a me. E ha detto no, a me non mi serve nulla, a lui qualcosa gli serve. Dice no, sto chiedendo, a me non mi serve niente, ho detto manca a me. Io mi sono fermato perché ho visto che questo signore stava per sbattersi al muro, ho pensato che si fosse sentito male. E intanto quelli dicevano, scenda dalla macchina, porca le chiavi, questo o quell'altro, va, prendendo la Bucci. E nel mentre gli stava passando il figlio, e gli ha detto, va, scendi, no, non ci scendo dalla macchina. Ma perché? Cosa è successo? E questo qui è andato a una festa, non beveva, ha bevuto, si è imbriagato, e praticamente era così per quello. Ma l'hanno trattato Marco, mi dia la patente, io non le do proprio nulla, gli ha detto. Comunque il modo di fare, no, già tu eri lì, stavi guardando, eccolo, dice niente, di cosa serve, abbiamo già capito di che persone si tratta. Scusate, crediti per me, dai, sentiamo, Antonello riprendi. Ciao Marco, arrivato Masciallo. Dai, riprendi. Ciao Marco, ci sentiamo, stavi bene, a dopo. Vieni qua, vieni da papà, vieni. Bravo, mi piace, bravo, tu sei... Non più balle, sì, ma sei bravo. Però ti ha fatto un figlio. Un figlio, non saranno. Quell'accio. Io me l'accordo con la cagnetta di Giovanna, quella con male in mano. Ma Giovanna perché cane c'ha? Sì, c'ha un male in mano, che c'è la Alessia in pratica, e poi un altro cane che è abbastanza grande. Il male in mano c'ha un caratteraccio, è molto autonomo, è a gusto suo, non ti ubbidisce, perlomeno sono quasi tutti così male in mano. Ah no, questo è tranquillo, questo male in mano qua. Appena suono a me viene a salutarmi anche l'altro. Poi sono andato con Tommy, ho visto che l'ho trattato come se fosse il suo figlio, non vuole che si avvicini l'altro cane, che c'è Giovanna a Tommy, figurati. Lei si mette davanti e gli mostra che c'è la bocca all'altro. Ma femmina è il male in mano. Femmina e male in mano. Allora per quello che sono più buona le femmine. Vabbè. Ma è cucciolo? Sì, è abbastanza grande adesso. Cucciolo proprio non lo è. E vabbè. E ne ha due quindi. Allora, ne ha due, ne ha. Ma lui se lo porta in giro o lo lascia faccia tutta la madre. No, già l'ho fatta in giro, Mirko, 3 volte al giorno, la mattina, poi la sera verso le 9, capito? Già l'ho fatta passeggiare a voglia. Vabbè, allora, se lo gestisce lì non fa nulla, dai. No, sono tranquilli come cane, anzi quando viene, io quando passo sotto casa di Giovanna addirittura passo delle proprio sotto e non si vede niente, non si capisce come fa a capire il cane di Giovanna che sta passando tutti, figurati, senza manco abbagliare nulla, si mette a piangere, si mette a fare, fa il gatto. Si mette, si vuole appegnare, si vuole. Aiuto. Poi quando esce da casa di Giovanna, tu mi cazzo una cosa allucinante, capisce già che sta uscendo lui, oppure che sta entrando, si mette davanti alla porta e si mette a abbaiare, già si rispondono noi, tutti due. Quando abbaia quello di Giovanna, abbaia pure il mio. E Simona come stai? Siamo là oggi, non sta bene, la verità, è debole, mi ha detto, non c'è voglia di mangiare, ormai gli ho dato il riso a pranzo, io mi sono mangiato di come si chiama la salsiccione insieme a Tommy, abbiamo mangiato assieme e poi la peperonata, ho mangiato. Infatti ieri quando ho mangiato la peperonata, 2:37 mi è arrivato questo cusso, 2 volte sono andato in bagno, la prossima volta ho messo la bottiglia. Però avevo mangiato da prima un pezzo di cioccolato, capito? Che mi ha fatto male. E quello è il cioccolato, rimane il peperone. Cioccolato e magari non hai risposto e ci ha fatto male, ci ha fatto così. Purtroppo molte volte il nostro fisico non accetta, non è predisposto per mangiare certe cose, ti va del male. Ma già 3 volte non ti fanno nulla. Sì, per 3 volte non mangiavo tranquillo. Ieri proprio mi ha fatto male. Sentivo tutto strano, poi dopodiché dopo che ho cenato mi sono sentito meglio e poi mi ha fatto sono partito in bagno 2 volte, sono veloce in bagno me la faccio addosso, ma non sono andato in nessun posto. C'è anche un virus in giro che fa questa cosa qua, c'è un virus che ti prendeva così. Non lo so, ma quello, a volte la voglio andare in bagno, te la fa anche se devi andare per dire in qualche ufficio, lui me lo fa così, mi viene i crampi al basso ventre per vendolo, capito? Poi comincia a arrivare aria e cose del genere, ti fa quando invece rientro a casa che sono calmo mi passa e ti scombucia tutto così. Non lo so, sì, sono cose che provano tutti. E infatti quando devo andare in qualche ufficio o cose del genere mi riuscire il video le gocce, così sto meglio, poi almeno sono più tranquillo. E vabbè, allora facciamo su 23 che c'è gente. E che c'è su 23? Ettore, Pesido, Maria, ci sono sempre. Il saluto passava qua ieri su 10, Gio Maria, abbiamo parlato quasi un'ora e mezza, proviamo su 23, se c'è ci aggrediamo. Ma io vi facevo spaventare. Sì, spaventare. Aiuto, proviamo.